Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Mangia come parli, mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Buongiorno chef, come stai? Buongiorno Pier, buongiorno a tutti. Io sto bene, ho mangiato bene, spero anche tu questa settimana. E siamo pronti con le castagne. Siamo pronti, un po' turbati ovviamente da questa crescita di casi e sì. Insomma ovviamente tutte le incognite che ci sono sulla nostra vita e riguarda tanti aspetti, anche il vivere e mangiare fuori. Per esempio questa settimana ho cenato ma fuori lunedì sera con Aldo Cazzullo e altri amici fuori e quindi... A Roma c'è una temperatura gradevole, ma insomma si fa di tutto pur di evitare ovviamente qualsiasi assembramento e qualsiasi rischio, mascherine e quant'altro. Quindi l'abbiamo invitato, Aldo. Sì, l'abbiamo invitato. Ciao Aldo, come stai? Ciao Pier, ciao Davide, un saluto a tutti gli ascoltatori, tutto bene? Grazie. Ciao. Tutto bene, oggi parliamo di castagne, comincia l'autunno, tu sei di Alba, fra l'altro fra poco tratteremo anche il tema del tartufo. Io ricordo 349-239-0191 è il numero dei WhatsApp vocali, quindi degli SOS Oldani, vi ricordiamo che ne sceglieremo uno che riceverà il libro di Mangia come parli con le ricette dello chef Oldani. Allora, al volo, prima di coinvolgere Aldo, le castagne, quanto ti ispirano, quanto ti intrigano come chef Davide? Castagne sono un ingrediente molto importante in questo periodo, è l'autunno, si possono utilizzare come quello che faremo poi nelle prossime tre ricette, perché ricordiamo che quest'anno il tema della puntata è un ingrediente e su quell'ingrediente noi svilupperemo tre ricette diverse, per cui andremo dalla pasta fatta con la farina di castagna, che ha questo profumo di tostatura di castagna molto intenso di bosco, poi faremo una crema con i marroni e poi un altro dolce, quindi due salati e un dolce sempre con il tema appunto della nostra castagna. Aldo, non so che rapporto hai con le castagne, sicuramente con la cucina di terra, soprattutto di terra delle Langhe, hai un rapporto profondo che nasce fin da quando eri bambino. Beh sì, da bambino andavamo a raccogliere le castagne, raccoglievamo sì le castagne da mangiare, poi se la teneva sempre una in tasca perché preveniva il raffreddore e cose in genere, e poi raccoglievamo anche quelle che non da mangiare, ma facevamo dei sacchi di quelle di ipocastane così da vendere poi a questi che poi facevano i profumi, ci procuravamo i primi soldini. E la castagna insomma, perché è cresciuto, ma non soltanto perché è cresciuto, no, gli Appennini, cioè è proprio un pezzo dell'identità italiana. È un pezzo dell'identità italiana ed è quella anche... matta da tenere in tasca, però diciamo, è la castagna matta, dicevano, dicono qui nel la castagna matta, la castagna matta, che per cui quella che non è non si mangia, si tiene in tasca e fa passare il raffreddore. Questa storia è vera. Senti, invece a Rivedere le Stelle, ti occupi di Dante, fra l'altro a Rivedere le Stelle, se non sbaglio, era stato anche lo slogan della tua Inter, Davide, nel momento del ritorno in Champions League, o sbaglio? Mi sembra una campagna di marketing, insomma è il libro di Cazzullo che racconta l'Italia attraverso Dante, attraverso il suo insegnamento. C'è un passaggio che mi ha colpito in maniera particolare, perché a un certo punto si fa un riferimento che non è proprio lusinghiero nei confronti dei pentoloni, dei cuochi, e c'è un paragone con i biscazzieri, con i corrotti, che vengono in qualche modo associati come immagine proprio a questi pentoloni. È così, Aldo? I cuochi sono paragonati ai diavoli che fanno cuocere i dannati, i biscazzieri, i corrotti dentro la pece. Non altrimenti, scrive Dante, i cuoci a loro vassalli fanno attuffare in mezzo alla caldaia la carne con gli uncini perché non galli. Cioè i vassalli, oggi noi diremmo il sous chef, tenevano proprio la carne con gli uncini dentro la caldaia finché non venisse fuori, finché rosolasse bene. Analogamente i diavoli facevano attuffare nella pece questi dannati. Cioè, per Dante l'inferno è un'immensa cucina, sono casi pericolosi, no? Caldissima con la pece. Sia l'inferno che in purgatorio, cioè, c'è anche un papa tra i golosi, Martino IV, pare fosse il ghiottissimo di Lamprede, che era una delicatessa nel tempo, e questo papa si abbuffava di Lamprede e Dante lo manda giustamente in purgatorio tra i golosi. Ma la domanda è: ma Dante la cacio e pepe la mangia? Che si mangia? Tu hai studiato, Davide, bella, nel XIII, XIV secolo, che si mangiava? La carne, sicuramente. Sicuramente carne, sicuramente si mangiava quella carne, magari conservata o abbinata a tutti quei frutti o gli ortaggi che venivano raccolti nelle stagioni, poi conservati tipo col sale, perché all'epoca c'era questo metodo di conservazione. Per cui quello che si mangiava di più era la caccia. Per cui caccia, cacciagione, bestie che venivano anche conservate. Non c'erano i vegetariani. E poi vegetariani pochi, ce n'erano qualcuno probabilmente, qualcuno però. Sì. Però evidentemente l'abbinamento della frutta, dei frutti rossi, dello zucchero abbinata appunto alla carne, fa parte della cucina, della grande cucina classica anche. Ma invece il tuo rapporto con la cucina piemontese, perché ci sono dei must della cucina piemontese, al di là del tartufo, al quale daremo spazio ovviamente nelle prossime settimane perché si sta avvicinando la stagione, ma lì c'è una serie di must assoluti, dalla battuta di Fassona, alla giardiniera, al vitello tornato appunto, al plin. Qual è il tuo ricordo più profondo, più madrenesco? Allora, io avevo una nonna che era una nonna di Barbaresco e una nonna di Barolo, quindi insomma l'elemento anche vinicolo era molto importante. La nonna di Barolo era forte con i plin, che poi vuol dire pizzicotto in piemontese, sì, perché l'agnolotto viene chiuso con un pizzicotto, mentre la nonna di Barbaresco era forte con i tagliarin, che sarebbero le tagliatelle, ma sono molto sottili. Poi il nonno faceva il macellaio, quindi la carne non... Cioè, stavi messo bene, diciamo, fra tagliarin. Devo dire che fra tagliarin e plin è veramente un derby, è un grande derby. Il sabato sera, quando si uccideva il maiale, il nonno portava a casa il sangue e si facevano le lasagne al sangue, che è una cosa che adesso viene arrestato, civile, il WWF, però noi invece mangiavamo. Però esiste, perché guarda che il sangue coagulato, quindi il sanguinaccio, anche qui nella campagna milanese, anche i miei lo mangiavano, lo facevano. Io devo dire che non sono un fan. Anche la cassera esiste, quella normale e quella col sangue coagulato, per cui è una cosa molto buona. A Napoli, ecco un altro esempio del sangue utilizzato per la cucina o per la pasticceria, viene fatto con la melanzana e il cioccolato. Assolutamente, ma vedi come è trasversale. Però questa cosa io, Aldo, l'ho visto l'altra sera, che abbiamo mangiato ho mangiato lo scarpariello tu pasta corta, io pasta lunga, ma è uno scarpariello notevole, anche se per Dante il cibo per eccellenza era il maiale. Infatti il goloso che c'è all'inferno viene soprannominato ciacco, che vuol dire maiale in antico toscano. Ci sono dei ristoranti sia a Firenze sia a Bologna che si chiamano Ciacco. Sì. Lui dice: voi cittadini mi chiamaste Ciacco per lo dannoso vizio della gola, per cui, come vedi, alla pioggia mi fiacco. Questi poveri golosi si beccano la pioggia tutto il tempo, eterna, maledetta, fredda e greve. Quindi dici: quello sarà il mio destino, cioè sicuramente fra i golosi finirò nel giro dei golosi sotto tutto inzaccherato, pieno di pioggia. Beh, c'è di peggio, potrebbe andare anche peggio. Ci fermiamo solo per un attimo e poi torniamo con Aldo Cazzullo, le castagne e tutto il resto. Mangia come parli. Allora, siamo qui con Aldo Cazzullo, vi ricordo 349-239-0191 con gli SOS Soldani, e uno riceverà, insomma, il più goloso riceverà il libro di Mangia come parli, e poi le tre ricette che stanno per arrivare, tante altre curiosità sulle castagne e non solo. A rivedere le stelle è anche una speranza, mai come in questo momento, Aldo, che com'è cambiata, come sta cambiando, al di là del fatto che la situazione cambia e non sempre in positivo di giorno in giorno, ma insomma l'Italia del lockdown, l'Italia delle paure, l'Italia della pandemia, si è un po' ricompattata attorno al cibo, attorno alla propria identità, oppure no? Secondo me sì, intanto abbiamo tutti un po' preso peso durante il lockdown, perché abbiamo mangiato un pochino di più, però soprattutto abbiamo ritrovato anche un po' il gusto di mangiare in famiglia tutti insieme. Siamo riusciti qualche volta a sottrarre i figli e i nipoti agli smartphone per mangiare, per pranzare tutti insieme. Allora, nella tragedia tutti avremmo fatto volentieri meno, però il cibo, la convivialità ci ha aiutati. Cioè, a rivedere le stelle è la parola che scrive, la frase, il verso che scrive Dante alla fine dell'inferno, è proprio il sollievo. Anche se sappiamo che non è finita, perché dopo l'inferno non c'è il paradiso, c'è la montagna del purgatorio da scalare, quindi non è finita, il peggio dovrebbe essere alle spalle, e l'idea che comunque l'Italia ha reagito, gli italiani e le italiane soprattutto, medici, infermiere, cassiere del supermercato, farmaciste, poliziotte, insegnanti, le persone che non si sono fermate e hanno fatto ripartire adesso l'Italia, insomma, hanno dato una prova di noi notevole. Le classi dirigenti un po' meno, secondo me, però il popolo italiano con le consuete eccezioni ha reagito bene. Certo, con le consuete eccezioni, ma con un senso di responsabilità medio, sicuramente non da buttare via, sperando che ovviamente che nei prossimi giorni la curva non vada troppo esponenziale, torni a essere un po' lineare e consenta un maggiore sollievo, un maggiore tempo per programmare ovviamente tutti gli aspetti sanitari. Però questo dipende da ognuno di noi, certo, poi alla fine, certo, perché il fatto che ci stiamo, insomma, stiamo un po' distanti, teniamo questa distanza sociale, dobbiamo renderci conto che è presente, per cui dobbiamo, e anche noi nella ristorazione credo che molti abbiano preso questo spunto, ahimè, così brutto, per poter migliorare e proporci in una maniera differente. Prima di salutare Aldo, chiuderei, visto che lui è di Alba, abbiamo, poi parleremo del tartufo in una delle prossime puntate, ma abbiamo già degli exit poll su come sarà la stagione del tartufo, perché insomma ci siamo ormai quasi a metà ottobre. Ci siamo, sì, io vedo, ne ho provato uno un paio di giorni fa, anzi un paio, devo dire che sono belli, sono profumati, qualcosa di pioggia è venuta, mi hanno detto i tecnici che se dovesse piovere ancora un filo avremo una grande annata di tartufo. La fiera aprirà a breve, per cui io credo che ci saranno grandi risultati su quello. Io parlo naturalmente, per me il tartufo è il tartufo bianco d'Alba, poi c'è il pregiato, c'è il nero, c'è lo scorzone, però il tartufo è quel profumo, possiamo anche dirlo in maniera volgare, un po' di gas che tutti riconoscono e che rende omaggio alla nostra Italia. Sicuramente è il più pregiato, anche se io ti posso dire, la settimana scorsa in Toscana ho fatto una mangiata di tartufo nero e anche, devo dire, di tartufo bianco, ma di zone non strettamente piemontesi, che era comunque molto buono, però Alba ovviamente è la capitale. Non era il nero, era forse uno scorzone, perché c'è il pregiato nero, che è una cosa che noi ne parleremo, del pregiato nero parleremo a febbraio. Adesso tutto quello che non è bianco è fondamentalmente è scorzone. E Aldo, che rapporto hai col tartufo? Insomma, quanto, cioè, voi siete diventati in pochi anni la capitale, o comunque una delle capitali della gastronomia, dell'enogastronomia italiana. Da Cavour in poi, non proprio da pochi anni, sì. Poi però ci sono anche molto marketing negli ultimi anni, no? Chiaro. Cioè da Carlin Petrini in poi mi sembra che comunque insomma Alba sia diventata ancora più famosa nel mondo per questo. C'era una tradizione su cui si è costruito bene, abbiamo queste tre stelle, Piazza Duomo, sì, ad Alba, che è eccezionale, abbiamo tante trattorie, abbiamo ristoranti di altissimo livello. Se fossero di Alba tutti i tartufi venduti come tali, ad Alba i tartufi dovrebbero crescere sugli alberi come ciliegie, quindi diciamo che tartufo d'Alba è un'espressione che viene considerata, cioè il tartufo che ha caratteristiche organolettiche compatibili con quelle di Alba. E, insomma, bisogna essere sempre prudenti, però ad Alba venite, se posso dare un consiglio, soprattutto a novembre, quando la fiera sta finendo, non è ancora Natale, i prezzi sono un po' più bassi, c'è una nebbiolina, le viti diventano viola, rossastre, hanno dei colori meravigliosi. Vi aspettiamo, perché è veramente la langa. Bello, bellissimo. E fra l'altro poi insomma usate, perfetta, che sai che Oldani non è soltanto uno chef, è anche proprio un disegnatore, uno scultore. No, dobbiamo dire Aldo qua, ti aspetto Aldo e poi ti tengo un perfetta, che è l'Italia tartufo che ho disegnato per valorizzare ancora di più questo nostro tartufo bianco. Grazie Aldo Cazzullo. Grazie Aldo. Grazie. Ciao. Ci stiamo per tuffare il tema delle castagne. Allora, io ho studiato le castagne, sai, innanzitutto che derivano da un albero selvatico che è il dillo. Il castagno, fin qui è abbastanza facile, che è detto anche albero del pane. Perché è detto albero del pane? Non lo so. Comunque sono ricche di amido, erano definite il cibo dei poveri, ci sono vari cibi dei poveri, devo dire, nella storia. Ma non è più, allora il detto cibo dei poveri o il cibo meno importante, il cibo è importante tutto allo stesso modo, purché sia in stagione, e accessibilità e qualità. E so, per anche cui, onestamente, adesso stavo giocando, perché il castagno è chiamato l'albero del pane, perché la castagna è ricca di amido e quindi nei periodi in cui non c'erano persone, non si potevano permettere il pane, la castagna diventava un ottimo sostituto. Partiamo con la prima ricetta: pasta fresca di castagne, pasta di salame, profumo di anice e vino rosso. Facci sognare. In attesa di due nozioni in più sulle castagne, sì, che ho studiato, andiamo, no? Avanti, ho studiato tutto. Ah, qui è molto semplice, devo dire che mi piace molto l'idea di utilizzare la farina di castagne per fare una pasta italiana, che è insolita, solo per il gusto della castagna che dona poi al piatto terminato. Allora, in una bacinella mettiamo 200 g di farina di castagne fine fine, con 300 g di farina di grano duro, 3 uova, più o meno 210 g di uova, 100 ml di acqua tiepida. Impastiamo delicatamente fino ad avere un impasto molto corposo, direi anche abbastanza elastico. Lasciamo riposare almeno 30 minuti, poi formiamo dei piccoli gnocchetti tagliando con un coltello, li cuociamo in acqua bollente salata, li scoliamo e li teniamo da parte. In un padellino avremo messo la nostra pasta di salame fresca, che naturalmente questo è anche il periodo, come si faceva una volta, soprattutto nella mia zona, dove si uccideva il maiale, si prendeva la pasta di salame fresca, quindi salata leggermente, la si mette in un più o meno 200 grammi per 4 persone, la si mette in una padella, la si fa rosolare per perdere un po' quel grasso che ha, la si scola, si elimina il grasso, si aggiunge più o meno 300 ml di vino rosso, lo si fa evaporare con una stella d'anice. Più o meno impiegheremo 15 minuti a far questo. Aggiustiamo di sale, al termine, quando sarà ridotto il vino, la carne ben saporita, si leva la stella d'anice, si manteca il tutto con una noce di burro, più o meno 10 g, burro dolce, i gnocchetti, la pasta di salame, e terminiamo con dei piccoli semi di zucca, più o meno 30 grammi di semi di zucca tostati al forno. Beh, mi sembra veramente favolosa, e io do il benvenuto, per rimanere in tema castagne, ad Anna Bosio, che è la portavoce del consorzio della castagna di Cuneo IGP. Ciao Anna, come va? Bene, grazie, buona giornata anche a voi. Buongiorno. Sai che noi parliamo di stagionalità, sai che è un must per lo chef Oldani, ovviamente anche per me, che sto imparando tante cose in questi anni di Mangia Come Parli, e insomma qua proprio cade come la castagna, cade come il cacio sui maccheroni, come la castagna a questo momento. Che stagione è? Esiste la stagionalità della castagna, ma esistono anche le annate? Sì, a seconda dell'andamento climatico possiamo avere un prodotto di alta qualità o di eccellente qualità. Quest'anno dovrebbe essere una buona annata, perché comunque l'andamento climatico è stato favorevole, e quindi insomma speriamo di riuscire a dare il meglio della nostra produzione ai consumatori, che naturalmente dovranno essere, come grandi chef, molto attenti alla qualità e saper riconoscere il prodotto che vogliono utilizzare, perché comunque non tutte le castagne hanno le stesse caratteristiche e quindi la medesima idoneità per la preparazione, certo, dei vari piatti. Senti, Oldani in transagonistica, che vuole farti 58 domande, ci fermiamo solo per un attimo, ripartiamo da qui fra un secondo. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Mangia come parli. Mangia come parli. Allora, lo sapevi che quando l'uomo ha cominciato a coltivare le castagne, tra potature e innesti sono arrivati i marroni? Che in un riccio di castagne si possono trovare fino a 7 frutti, nei marroni se ne possono trovare al massimo 3? Lo sapevi? Certo che lo sapevo, insomma, siamo informati. No, io volevo chiedere ad Anna, a parte castagna Cuneo IGP, c'è una castagna nuova che viene... Che viene studiata, che viene riproposta, che viene trovata nella storia per proporla, per metterla, per aggiornarla ai giorni nostri? Ma una qualità, non lo so. Allora, nell'ambito della nostra IGP abbiamo ben 22 varietà, tutte storicamente presenti sul territorio, di cui un marrone, perché come giustamente avete detto voi, c'è differenza tra castagna e marrone. Ecco, vogliamo dire qual è ai nostri ascoltatori? Sì, allora di per sé derivano sempre dalla stessa specie, quindi è sempre castanea sativa, quindi il castagno europeo, ma il marrone ha la particolarità di non avere il setto, il frutto settato, quindi quella pellicina che divide a metà il frutto. E quindi è idoneo per fare i marroni e hanno una pezzatura più grande. mentre invece la castagna, la castagna normale, chiamiamola così, è quella che tendenzialmente ha questa settatura, quindi il frutto si divide in due e quindi è meno idonea per la preparazione dei marroni, perché comunque dovremo poi andare a dividere la preparazione e avremo solo dei pezzetti. Grazie Anna, bocca al lupo ovviamente per la stagione, con tutte le incognite ovviamente che riguardano tutto il mondo della produzione, della distribuzione di generi alimentari in Italia e soprattutto insomma delle grandi icone del Made in Italy, e la castagna sicuramente, la castagna IGP è una di queste. Spazio News, vai! Allora, spesa e fase 2, famose fase 1, 2, 3, 4, eccetera, eccetera. Dopo l'emergenza, il 36% dei consumatori ha continuato ad acquistare online. Si parla tantissimo delle conseguenze che questa pandemia e questo lockdown ha avuto sulla vita delle persone. Abbiamo accennato al dibattito che c'è, ad esempio, fra gli urbanisti, gli architetti, sulla città post-pandemia, sulla città del futuro. Qui, ecco, un'altra cosa fondamentale, il comportamento dell'acquisto, cioè la digitalizzazione degli acquisti alimentari è una realtà. Il 36% di chi aveva sperimentato durante il lockdown per costrizione, perché stava dentro casa, ha continuato a fare la spesa privilegiando i siti web alla GDO. Poi, passando a un capolavoro assoluto come la mozzarella DOP, si diplomano le prime due casare, l'esame superato per gli studenti della scuola di formazione, il 93% trova un lavoro, a fine ottobre parte la quarta edizione, insomma, a Grazianise è nata Francesca Garofalo 20 anni fa, e invece a Nola, sempre nel napoletano, Grazianise credo sia provincia di Caserta, è nata Erminia Ciavoli Cortelli, si sono diplomate per la prima volta due casare alla scuola di formazione del consorzio di tutela della mozzarella di bufala Campana DOP. Devo dire che questa è una di quelle cose che proprio mi allarga il cuore, perché dà veramente l'idea come da un prodotto di grande tradizione, di grande bellezza, di grande bontà possano nascere anche opportunità di lavoro, e c'è questo dato fantastico del 93% che trova il lavoro, 38 giovani sono già in possesso della qualifica, insomma è bello. Tanto artigianato, è bello perché c'è ovviamente italiano. La passione. L'uva la tavola, l'export cresce 35%, la produzione è stabile, cresce anche la varietà senza semi, le quotazioni all'origine sono altalenanti, non sono sempre considerate soddisfacenti dai produttori, e insomma anche qui è una fase non semplicissima. E poi c'è la Milano Wine Week dal 3 all'11 ottobre, insomma ci siamo pienamente dentro, ci avviamo alla chiusura. Sul palcoscenico internazionale io do il benvenuto a Nadia Zanato, imprenditrice vinicola che partecipa a questa Milano Wine Week occupandosi, credo, di strategia, di marketing, di rete di distribuzione, di vendita del brand appunto Zanato. Ciao Nadia, come stai? Buongiorno Nadia. Bene, grazie, buongiorno a tutti voi dalla Milano Wine Week. Come va questa Milano Wine Week? Quest'anno siamo tutti un po' digitali, un po' di presenza, esatto, un po' con le mascherine. Questa cosa a me piace molto proprio perché c'è questa possibilità di potersi collegare con questa piattaforma digital Wine Fair con tutto il mondo. Noi abbiamo appena concluso la nostra masterclass dedicata appunto all'anima del Lugano e il cuore della Valpolicella, che sono i due territori che noi rappresentiamo con i nostri vini, in collegamento proprio con Shanghai e Shenzhen. Quindi è stata una mini verticale. Quindi collegamento digitale, come funziona? Una sorta di tasting room esatto, digitale, sì, però si beve. Certo, sì, sono collegati appunto anche loro in diretta, e quindi sommelier, ma anche ristoratori, insomma, appassionati, e che noi cerchiamo appunto di raccontare a loro la nostra storia, ma soprattutto di degustare i vini della nostra produzione, in particolare le nostre due, diciamo, punte importanti come Lugana Riserva Saggio Zanato e la Marone Riserva, quindi le nostre due espressioni dei nostri due territori importanti che noi rappresentiamo. Quindi devo dire che io sono molto contenta di aver aderito a questa Wine Fair, la Milano Wine Week, e soprattutto perché è un'opportunità in un momento come questo poter far parlare dei nostri grandi vini italiani nel mondo. Come sta andando il mondo del vino? È più per esatto. L'abbinamento con i piatti? È un abbinamento che si tenta di fare dove si cercano i profumi del vino nel cibo, o una cosa che va un po' in contrasto, un po' in come quello che dico io, l'equilibrio dei contrasti che uso in cucina? Sì, beh, c'è un cioè, po'. Mi viene l'esempio più grande è il dolce sul vino dolce, ecco, che è una cosa che io magari non amo molto personalmente, infatti si va un po' in contrasto ed è questo che anche a noi piace, cioè l'idea a volte di azzardare che non per forza sul dolce ci deve essere l'abbinamento del vino dolce. Certo. E quindi esatto, sono anch'io dell'idea di volere un attimo anche azzardare nel far provare dei vini anche su dei piatti, non per forza i classici abbinamenti usuali, no? Quindi sì, abbiamo voluto anche noi un po'. E un abbinamento un po' strano col vostro amarone, l'ultimo, insomma, quello che state degustando adesso, con cosa lo suggerisce? No, allora il classico che a noi piace è quello appunto del guanciale. Perché appunto è un abbinamento molto classico e che si addice al nostro amarone, ma a volte se vogliamo azzardare con qualche annata particolare come la nostra riserva, io dico sempre il cioccolato. Ah, ok, beh. Non male. Azzardiamo. Io posso proporne due, ne propongo due. Uno è l'abbinamento pizza e mortazza con lo champagne, o comunque con Franciacorta, o le bollicine che preferite. Nadia, che secondo me non so cosa sia la mortazza. E l'altro, secondo me, è invece il Riesling con mi chiama Wüster, mi chiama Senape, Senf, come dicono i tedeschi. Vabbè, ve lo sparate un paio. Ognuno ha le sue. Nadia, ha sentito? Sei d'accordo, Nadia? Sì, va bene. Non contraddirmi. No, veramente la sento un po' un abbinamento un po' troppo azzardato, devo dire. Troppo azzardato. Nadia, sono d'accordo anch'io, Nadia. La bollicina con pizza e mortazza non vi piace? Vabbè, dai, via. Ciao, in bocca al lupo ovviamente per la Milano Wine Week. Io sono troppo avanti, non c'è niente da fare, questi non mi seguono più. Allora, abbiamo però la seconda ricetta, crema di marroni, gamberi marinati e melagrana. A proposito di accostamenti. Ci sta un po' sapidità. Allora, mi hanno fatto fare adesso quello strano, quello che ha scavalcato Oldani, perché ho messo una bollicina su pizza bianca. Io chiamerei mortadella e bollicina. Ci può stare con delicatezza. Wüster, Senape e Riesling. No, aspetta. Ragazzi, ma di che siamo? Wüster, magari diciamo mortadella. Senape, Wüster, magari aspettiamo un attimo. Io prenderei una DOP italiana, la mortadella. Prenderei. Vabbè, ho capito, però la pizza. Adesso non possiamo mangiare un Wüster una volta o un hamburger. Vabbè, comunque, un Wüster italiano. Fare come pare. Non c'è il Wüster nella prossima ricetta. No, perfetto. Nessun Wüster è stato maltrattato. Crema di peperoni. Marroni. Crema di marroni, gamberi marinati e melagrane. Molto semplice. Cuociamo in forno a 190 gradi 200 grammi di marroni. Allora, per la cottura, la cosa più importante di questa ricetta è la cottura del marrone, per cui va inciso leggermente con un coltellino, poi messo in forno. Perché va inciso il marrone quando lo metti a cuocere? Perché tu lo fai sempre. Faccio sempre perché si forma altrimenti una camera d'aria che potrebbe poi scoppiare e, insomma, distruggere, sporcarti in giro farti anche del male. No. Per cui l'incisione che viene fatta sulla buccia del marrone viene fatta per far sfiatare l'acqua di vegetazione che c'è nel marrone interno, per cui esce da questo foro, si cuociono, una volta cotte le sbucciamo per bene, le mettiamo in un altro pentolino con circa 200 grammi, 2 decilitri di latte e 3 decilitri di brodo vegetale. Facciamo cuocere per bene il tutto. Alla fine saliamo leggermente, se è il caso e se volessimo potremmo mettere anche una bacca di vaniglia tagliata all'interno della cottura tra questo latte, marroni e brodo vegetale. Dopodiché leviamo la nostra bacca di vaniglia, frulliamo il tutto e otteniamo una crema, una vellutata di marroni con il profumo vanigliato, che è fantastico. Aggiungiamo un pizzico di sale. A parte, avremo preparato i nostri 16 gamberi di Mazara, naturalmente sgusciati, senza il carpaccio, scusate, con messi a marinare con 2 grammi di sale, 4 grammi di zucchero, la scorza di limone e un po' di rosmarino fresco per circa 4 ore. Li leviamo dalla nostra marinatura, li disponiamo nel centro del piatto e la nostra vellutata di marroni, che potrebbe essere servita anche tiepida nel caso. Tiepida, non proprio bollente, col gambero marinato. Buonissimo, anche se io adesso avrò... E la melagrana certo. Sgranata sulla pronta sopra a guarnire, no? Guarnire, non dare, si dice guarnire, la dolcezza, a dare dolcezza. Sai, in cucina, in cucina sì, non è bello guarnire, brutto guarnire, brutto. Tu sei quello che chiami le verdurine, no, l'insalatina. No, ammazza, oggi che polemica. Adesso vado a farmi pizza, mortadella e bollicine. Ma mi è venuta la voglia, fantastica. Pizza bianca romana, la pizza bianca romana bella ripiena con la mortadella, possibilmente senza non mi piacciono tanto i lividi, come pistacchi, buttata dentro fine. Con una bella bollicina fredda, ma di che stiamo parlando? Fra poco torniamo a essere soldati, tutto il resto. Mangia come parli, mangia come parli. Allora, caro Oldani, noi quest'anno, sai che insomma, facciamo un punto di vanto di dare anche un po' di prezzi, perché insomma il portafoglio ovviamente non è eterno. L'economia applicata alla famiglia, che poi è la base anche del sapersi nutrire in maniera corretta, quindi il prodotto di stagione fa bene, meglio di altri, e poi soprattutto aiutiamo l'economia della qualità famiglia. Qualità comprata al prezzo giusto. Qual è il prezzo giusto delle noi castagne? Vanno dai 2,50 euro ai 3,50 euro, poi a seconda del calibro, a seconda della pezzatura, dai 3,50 euro 4,50 euro al chilo. Okay. Quindi cambiano insomma di poco, però a seconda della bellezza, di come ha il calibro la castagna stessa, il mercato decide. Più il calibro è grande, più costa. Più è preciso, più è perfetto, più è pulito. Diamanti, naturalmente hai un prezzo. Qua, no? È un po' come, sai, una volta in Giappone mi era capitato di vedere due meloni. Sì. Che prezziati del tipo, parlo di 25 anni fa, 150.000 lire, insomma era un prezzo stratosferico per due meloni, e mi dicevano che il melone veniva giudicato per la retina che si formava all'esterno, per cui a seconda di come era lineare questa retinatura del melone aveva un prezzo diverso. Fantastico. Senti, abbiamo già essere soldati, io vi ricordo 349-239-0191, vi ricordo che anche oggi premieremo il più goloso, decideremo qual è il più goloso, che riceverà il libro di Mangia come parli con le ricette. Partiamo, vai, sigla. SOS Oldani. Vai. Ivana da Margherita di Savoia. Salve chef. Ascoltandolo ho capito che lei è un fan dello zucchero muscovado, ma ci sono degli usi dello zucchero in cui anche lei privilegia lo zucchero semolato? Grazie. Ormai ti conosciamo tutti con sto muscovado. No, direi che è molto facile usare il semolato, e su gran parte delle ricette è un po' più difficile usare il muscovado, però con un po' di impegno, con due o tre prove cambiando il muscovado da semolato si Quali può. Quali sono le caratteristiche per cui il muscovado è più adatto? Mi piace perché anzitutto è il prodotto più naturale possibile, non è trattato. Okay. E poi ha anche la venatura, questa venatura di liquirizia che a me piace tanto. Jessica da Sondrio. Buongiorno chef, io avrei solo una curiosità. Per una mantecatura perfetta in un tagliolino, banalissimo, tagliolino al burro mantecato con del gambero crudo sopra. Per una mantecatura perfetta, lei cosa suggerisce? Ma di fare abbondante acqua prima di mettere il tagliolino nella pasta, aggiungere le noci di burro fuori dal fuoco, si scioglie il burro per cui rimane questa setosità della salsa, e poi quando si aggiunge il tagliolino c'è l'amido della pasta che riesce ad amalgamarlo. Non deve essere quasi brodoso questa salsa che si forma, perché altrimenti c'è il compattamento totale del tagliolino, che a me non piace, poi il gambero naturalmente a piccoli pezzi crudo appoggiato sopra. Alberto da Bologna. Ciao amici di Forchetta, sono Alberto, chiamo da Bologna. Io voglio sapere di Davide qual è la sua ricetta del fumetto. Grazie. Fumetto di pesce, l'importante è che i pesci siano ben lavati, venga tolta la parte insomma, del sangue del pesce, lasciati a mollo almeno per una decina d'ore sotto acqua corrente oppure ghiaccio, dopodiché scolati, messi in una pentola, più o meno su mezzo chilo di lische di pesce, 2 decilitri di vino bianco, e poi totalmente coperti d'acqua, fare sobbollire per una decina di minuti e poi lasciare per almeno una quarantina di minuti fuori dal fuoco prima di filtrare. Sai che quando ha detto la ricetta del fumetto io ho pensato a Mafalda oppure a Pimpa, queste cose qua, no? Cioè, invece tu sapevi tutto, devo dire che sei fuori classe. Due foglie di alloro io le metterei. Assolutamente. Alloro secco. Anche ricordiamo Chino, che è stato il grande disegnatore di Mafalda, che insomma ci ha lasciato una decina di giorni fa. Mentre una settimana fa, durante tutti i convocati, c'è stata una specie di SOS Soldari. Abbiamo il contributo, Schiattone Ferronato, prego, sentiamo, agevoli. Sì, buongiorno, chiedo solo a voi se c'è Pardo in diretta. Sì, certo che c'è. Perché stavo cercando di, e poi mi avete interrotto, di cucinare dei tortellini per farli col burro fuso, e quanto deve durare la cottura, caro Pardo, che dato che tu sei un uomo ma io non sono Oldani. Ecco, io poi ho risposto a questo interrogativo. Pellegatti si è beccato un sacco di critiche, il tortellino col burro fuso, un po' che è successo una cosa. C'è Pellegatti collegato? Pellegatti? Sì, sì. Ciao, mi avete Carlo. In mezzo con Oldani, cioè voglio dire. Buongiorno, Carlo. L'antitesi. Beh, meglio oggi che fra una settimana, che insomma ci sarà, speriamo che ci sia il derby, che li vedrà, sì, vedrà sì. Contrapposti. Va bene, lasciamo perdere il calcio. Invece vogliamo rispondere. Vogliamo rispondere, il burro ci sta, il tortellino ci sta. Poi se uno lo vuole fare in brodo va anche bene, però più che un burro fuso così, magari la provocazione potrebbe essere quello di fare un burro nocciolo. Cioè si mette su in un pentolino il burro, lo si fa sciogliere piano piano fino a che non inizia a friggere leggermente, per cui evapora l'acqua che c'è nel burro, rimane un po' più il profumo intenso di burro e di nocciola perché comincia a soffriggere leggermente. Quel burro alla nocciola, secondo me, su un tortellino è fantastico. Ma naturalmente deve essere proprio un cucchiaino adagiato sopra. Sono pure idee, Carlo, Davide, per i tuoi soprannomi. Puoi fare burro fuso, poi scegli un calciatore. Oppure burro alla nocciola, burro. Ecco. No. Davide Oldani, che non ha studiato il pellegattese, non sa che dopo un gol delicato, dopo un assist delicato, dicevo, un gol, o meglio un assist profumato come un bicchiere di Sauterne davanti a un piatto di foie gras al troubadour di Es Village. Questa era la mia frase. Es Village, che è grande, vedi l'eleganza. Io aggiungerei anche un meco, cioè voglio dire veramente, qualità, qualità ed eleganza. Vedi qualità. Come puoi girare poi Sauterne foie gras. Sauterne foie gras, scusami Carlo, è quasi come il piatto che ha lanciato, l'abbinamento che ha lanciato poco fa Pierre, non lo ripeto naturalmente, però foie gras e Sauterne da intenditore. Ma come scusa quello. Carlo, allora, no, ho non detto, voglio ripeterlo. Si parlava di accostamenti un po' arditi con i vini, io ho detto che pizza è morta, pizza bianca romana. No, un altro abbinamento, non questo. Just, ma lo ribadisco, se, beh, è chiaro che la morte sua è la birra con Wuster e la senape. Ma se ci vuoi prendere un vino vicino, insomma, il Riesling ha un tipo di e ne sono orgoglioso e porterò avanti questa battaglia, anzi amici ascoltatori, schieratevi dalla mia parte. A proposito, a chi diamo il libro? A chi diamo il libro? Secondo me quello intrigante così è stato il fumetto, sì. Alberto da Bologna. Senti Carlo, hai altre curiosità? Fra l'altro sei stato in Sicilia la settimana per un paio di giorni, che ho invidiato, Sicilia, no? Oggi mi hanno fatto paccheri al Pachino, qui siamo vicini a Pachino dove ci sono ovviamente i famosi pomodorini, con il sapore di menta. Ecco, a me il sapore di menta nei primi o nelle pietanze mi fa sempre impazzire. A me la menta fa sempre impazzire. Sei il mio spaghetto che... Vedi che io e Carlo, il mio spaghetto che ho lanciato è stato quello col pomodoro, e anziché la foglia di basilico c'era una fogliolina leggera di menta, che secondo me. Però è, fra una settimana elegante. C'è il derby, vi ricordo. Pellegatti, vuole dire qualcosa a Oldani? No, io sono prima volta che possiamo parlare insieme. Ho citato la mia citazione, sono stato promosso. Sì, sul derby, sul fatto che è interista, non gli dici nulla? No. Beh, ma noi siamo sportivi, istiga, Carlo, questo istiga, Ma che istigo così? Sì, questo istiga. Poi momento. E quando lo istighiamo noi in trasmissione, hai in mente i pompieri di Vigiù? Sì. Tu hai in mente i pompieri di Vigiù? Ecco, è tutto un pompiere di Vigiù che se la cosa lascia incomincia a buttarci giù litri di acqua gelata. Fa il fenomeno. Democrazia Cristiana, ma mi ho chiesto una battuta sul derby, non è che vi ho detto di fare i tafferugli, ragazzi, ma oggi ma che c'è? No, noi chi lo vince il derby, Oldani? Chi lo vince il più bravo? Pellegatti risponda, prego Pellegatti. No, noi diciamo il migliore. Che il Milan continui. No. Fa le parole banale, diciamo, spero che continui a giocare come ha giocato negli ultime settimane, negli ultimi mesi. Perfetto, poi sono io il pompiere di Vigiù. Ciao Pellegatti. Ci avete tutti e due proprio la voglia di fare proprio 0-0, ma lo capisco perché la scaramanzia nel calcio è ovviamente fondamentale. Manca ancora una settimana al derby, mentre mancano pochi secondi al marron glacé, arancia, polvere di caffè e riso. E riso, vedi, il solito discorso, un riso anche in questo caso che è un foglio bianco col marron glacé, è fantastico. Noi come lo facciamo il riso di solito? Dai, una cosa. Il riso lo facciamo senza bianco, è il nostro foglio bianco, senza soffritto. No, ripetiamo, dai, lo ribadiamo. Pentola calda, mettiamo il nostro riso, facciamo tostare nudo e crudo così. Un po' di soffritto, un po' d'olio soffritto, bello pesante, coraggio e cipolla. No. Per favore. Ma lo so, dai, ricorda il tuo riso. Facciamo, tostiamo in una pentola senza nessun grasso, senza cipolla, senza nulla, in maniera tale che il chicco prenda il calore, emani il profumo del cereale, per cui poi iniziamo a bagnare con un po' di acqua, lo cuociamo, io uso un Carnaroli, tu sai, il mio preferito. Una volta che è cotto lo leviamo dal fuoco, mantechiamo con un goccio di aceto, okay. Se vogliamo anche un po' di spremuta di arancio leggera, una grattugiata di buccia di arancia, una volta che abbiamo mantecato, poi un po' di burro, se vogliamo in questo caso un po' di Castelmagno sbriciolato dentro, che ci sta, è anche il momento, questo è il momento buono, poi per rimanere anche nel Piemonte. Una volta che abbiamo mantecato il nostro riso, lo mettiamo in una fondina, a me piace dire, cospargiamo con i nostri marron glacé sbriciolati, per cui ci sarà una parte di consistenza di marron glacé e poi la glassatura dello zucchero, che è molto buona, e una spolverata di caffè proprio in ultimo, macinato all'ultimo momento, per cui questo profumo di arancia, di caffè, di marron glacé, credo che sia un buon primo piatto da presentare in questo periodo. Sei bravo, Dani, c'è niente da fare, anche se non apprezzi il Riesling con l'hot dog, ma insomma nessuno è perfetto della vita. Ragazzi, grazie a tutti, grandi castagne, noi ci vediamo, ci ascoltiamo, ci siamo in radio la settimana prossima con nuove ricette, con grandi mangia ingredienti, bene, con mangia bene, sì. E viva il derby. Adesso riparte, adesso comincia, però Bologna per le cattiche, va bene, sì, fra una settimana, c'è una settimana di tempo, adesso c'è la pausa delle nazionali. Grazie Oldani, ciao Pier, ciao a tutti, ciao. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.